24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:31 minuti siamo qui, cari ascoltatori, 24 mattino in diretta fino alle 9. Vi dico subito che oggi nel nostro sondaggio parliamo di un tema molto popolare e che riguarda milioni di italiani, vale a dire genitori separati. Perché ieri lo psichiatra Meluzzi sul Giornale ha lanciato questo tipo di idea, qualcuno dice provocazione, almeno riportando indietro nei tempi. Ha detto Meluzzi: meglio genitori litigiosi ma che rimangono uniti piuttosto che una separazione, questo per il bene dei figli. Siete d'accordo con questa analisi? Ne parleremo con Meluzzi stesso. Ci sarà anche il nostro ospite, il regista Giovanni Veronesi, autore di un film molto visto attualmente sul rapporto genitori-figli. Ne parleremo alle 8:30, dovete votare su radio24.it, ci trovate nell'home page bianco o nero. Che ne pensate? Meglio genitori litigiosi ma che rimangono insieme, salvano il rapporto, piuttosto che genitori separati, questo per il bene dei figli? Ne parliamo più avanti. Ora andiamo a scoprire i giornali di oggi che cosa ci propongono. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta In primo piano. Voi pensavate che sarebbero passati più di 2 o 3 giorni senza leggere le intercettazioni che riguardano il Presidente del Consiglio sui giornali? E invece non sono passati, o ne sono passati giusto un paio, 2 o 3 per l'appunto. Oggi Repubblica, Il Giornale e Il Fatto Quotidiano pubblicano le intercettazioni che coinvolgono Berlusconi e non solo. Parto allora da questi 3 titoli. Da questi 3 giornali per Repubblica: Rai, nelle telefonate spunta Letta; Il Giornale, ecco le telefonate di Silvio, il testo delle intercettazioni; Il Fatto Quotidiano, tutte le minacce minuto per minuto. Mentre il duello Alfano-CSM è l'apertura del Corriere della Sera, duro scontro Alfano-CSM anche per la stampa, Trani scontro CSM-Alfano, così stesso titolo, Trani scontro CSM-Alfano per il Messaggero. Vedremo le altre aperture più avanti, cito solo il Sole 24 Ore, salta l'intesa sugli edge. Il tema finanziario del giorno: nessun accordo all'Ecofin sul varo di regole più stringenti per i fondi speculativi. E poi si parla anche del rating greco, della Grecia e delle sue difficoltà finanziarie. Ma come detto, nel giorno in cui c'è questo scontro tra il CSM e Alfano, nel giorno in cui sono arrivati gli ispettori a Trani per questa inchiesta che vede coinvolto indagato Berlusconi per presunte pressioni su alcuni membri dell'AGCOM per chiudere alcune puntate di programmi Rai, in particolare Anno Zero di Santoro. Ieri Santoro è andato a Trani, questa è la cronaca, no? E ieri, tra l'altro, scrive il Corriere della Sera, viene intercettata questa frase all'interno della procura, Giusi Fasano: ma che ti credi di fare? Basta, mi hai rotto il... puntini puntini. Chi ti credi di essere? Era il capo della procura e pare ce l'avesse con Michele Ruggero, vale a dire il PM che fino a 4 giorni fa si è occupato in solitaria delle indagini e ora è stato affiancato dal procuratore capo da 4 sostituti procuratori. Ma bando alle ciance, eccole qui le intercettazioni che potete leggere su Repubblica, Il Fatto e curiosamente anche sul Giornale. Il Giornale le pubblica per dire eccole qui, non dice nulla di sconvolgente Berlusconi. Ma Repubblica parte già da Gianni Letta, intercettato con Innocenzi, vale a dire il membro dell'AGCOM che avrebbe subito le pressioni da Berlusconi per far chiudere Santoro. Dice sostanzialmente, sono pagina 2 e 3 di tutte queste intercettazioni, Innocenzi parla con Letta e dice: non so più a che aggrapparmi, tutto quello che potevo fare l'ho fatto, tu Gianni Letta sei l'ultima spiaggia. Poi Innocenzi chiama Masi, il direttore generale della RAI, e dice: l'ho detto anche a Gianni Letta, quindi abbiamo chiuso il cerchio, nessuno può dire che non sapeva un cazzo. E poi lo stesso Masi e Innocenzi si telefonano spesso, confidando un po' anche la disperazione delle telefonate che Berlusconi fa a Innocenzi. Masi e Innocenzi dicono: ma gli abbiamo pure, siamo pure riusciti a eliminare Paolo Ruffini, il direttore di Rai 3. L'idea è, come per dire, per assecondare ai desiderata di Berlusconi. Poi ecco le telefonate tra Berlusconi e Innocenzi. Sono telefonate nelle quali si legge Berlusconi insulta il membro della GCOM perché non riesce a far chiudere Anno Zero. Innocenzi annaspa, dice che abbiamo fatto qualcosa, non abbiamo potuto fermare la trasmissione sul caso Mills. Sono andato da Calabro, cioè il presidente della GCOM, incazzato come una biscia. E Berlusconi che dice: giovedì sera c'era il processo Spatuzza e fanno il processo a me come appartenente alla mafia. Se voi non riuscite veramente a fare questa roba qua, io non lo so. Berlusconi ancora dice: parla con Calabro, il presidente Agicom. E tra l'altro Berlusconi dice: però stai attento, perché ci sono voci, non so se vere, che il telefono di Calabro sia sotto controllo. E Innocenzi dice: ma guarda, il sospetto sostanzialmente è che anch'io ce l'abbia sotto controllo, ma non mi frega niente. E ancora Innocenzi su Santoro: non è più possibile che questo qui faccia quel cazzo che gli pare veramente. Infine ci sono, ecco, io mi chiedo, anche le telefonate già finite, pagina 3 di Repubblica, di Innocenzi e Berlusconi, che parlano di una situazione chiaramente personale di Berlusconi, vale a dire il divorzio con la moglie Veronica. Berlusconi che dice: sai quanto mi ha chiesto mia moglie di mantenimento al mese? 3.600.000 euro, che fanno 45 milioni l'anno, 90 miliardi di lire. E siccome c'ha il giudice che è amico dell'avvocato, hanno depositato ed è andato automaticamente a un certo giudice, c'è il rischio che succeda che me li danno. Insomma, poi parla della sentenza CIR De Benedetti. De Benedetti mi chiede i soldi, ma ha già avuto una sentenza a favore, 750 milioni. Pensa te, mia moglie mi chiede 90 miliardi. Sono messo bene, no? E poi le sentenze penali, giudici che sono dei killer invece che essere dei giudici. Cioè, questo già leggiamo sui giornali. Anche Il Giornale mette a pagina 3, ecco quella, tutte le intercettazioni. Berlusconi che dice spesso: non ne posso più, fate qualcosa, bisogna chiudere tutto, bisogna concertare un'azione vostra che consenta, che sia da stimolo alla RAI per dire chiudiamo tutto. Il problema, anche qui stralci intercettazioni, Innocenzi che si sfoga, il problema è che Ghedini rompe il cazzo, quell'altro Bonaiuti che è una roba che monta. Insomma, potete già leggere tutto anche sul Fatto, gli stralci di intercettazioni. I protagonisti di questa vicenda sono, tra gli altri, come detto, la GCOM, di cui Sergio Rizzo sul Corriere della Sera in prima pagina oggi fa un editoriale ancora ribadendo: quelle authority sotto tutela, intenzioni di partenza ottime, le authority dovevano essere gli anticorpi della società moderna, ma... Così doveva essere, ma dice Sergio Rizzo, i meccanismi di nomina sono tutti diversi l'uno dall'altro, offrono ai partiti spazi di penetrazione enorme. Dei 58 commissari che governano le 10 autorità considerate indipendenti, ben 17 sono di emanazione diretta della politica, ex parlamentari o ex esponenti dei governi di vario colore. Insomma, dice Sergio Rizzo, l'idea di indipendenza è impossibile sostanzialmente. I protagonisti, dicevamo, sono il direttore del TG1, Augusto Minzolini, colui che, interrogato a Trani, subito dopo ha fatto una telefonata. Oggi si scopre a chi? A Paolo Bonaiuti, vale a dire il portavoce del presidente Berlusconi. Lo stesso Minzolini, in un'intervista a Il Giornale, dice: certo, ho chiamato Bonaiuti, finito l'interrogatorio, ma non abbiamo parlato di Anno Zero. Anzi, sostanzialmente dice: io non ricordo neanche che in quell'interrogatorio mi abbiano fatto domande su Anno Zero. Ho chiamato Bonaiuti, mi sono sfogato dicendo: ma a te pare normale quello che mi è successo? E dai, poi, mica sono cretino. Secondo voi, se penso di avere il telefono intercettato, essendo una storia assolutamente assurda, penso che intercettavano me? Fermatevi a pensare, ma è normale che uno viene intercettato così, sputtanato a questo modo? La cosa veramente assurda è: qui si parla di un'inchiesta che batte su un interesse superiore alla media di 300-400 euro, perché parte tutto da queste vicende sulle carte di credito. Tra l'altro Minzolini, sempre al Giornale, dice: ora che succede? Parto con le azioni penali, è il minimo che possa fare, chi ha sbagliato pagherà. C'è invece sul Corriere, parla Mauro Masi, il direttore generale della RAI, che su Repubblica leggete intercettato con gli stralci di intercettazioni. Mauro Masi dice: sul direttore Minzolini indagato seguirò le procedure. È un'intervista a Paolo Conti. sulla vicenda dell'inchiesta dice: guardi, Minzolini è un ottimo professionista, ma ci regoleremo secondo la governance aziendale, informerò il CDA su ogni minima novità al riguardo. Stando alle intercettazioni, secondo lei che tipo di rapporto c'è tra Minzolini e Berlusconi? È un rapporto da servizio pubblico? Non esprimo pareri su una vicenda dai contorni indefiniti che conosciamo solo da articoli di giornali, dice Masi, che poi dice: ma di che censura parliamo? Per quel che riguarda anche il contratto di travaglio ad anno zero. E poi ancora, ha avuto pressioni lei perché chiudesse anno zero e mandasse a casa Santoro? Mai avuto pressioni da alcuno e di alcun tipo, dice Masi. Ma come, scusi, lei avrebbe detto in un'intercettazione: nemmeno nello Zimbabwe la politica cerca di chiudere una trasmissione prima che vada in onda. Guardi, al telefono si fanno tante battute, io ho rapporti con diverse autorità, ciò che conta sono i risultati aziendali e gli atti. Mai pressioni nemmeno con Parla con me della Dandini? Niente pressioni né sulla Dandini né su Report. Basta rispettare le regole aziendali. Insomma, Masi si difende così. Ripeto, trovate ampi stralci. Il Riformista intervista invece un paio di membri della GCOM, uno di sinistra e uno di destra, perché sono emanazione della politica, appunto. C'è Michele Lauria che dice: non viviamo certo su Marte, è chiaro che le pressioni arrivano, ma non bisogna farsi condizionare, mentre Enzo Savarese, che è ex, tra l'altro, deputato di Alleanza Nazionale, dice: le intercettazioni di Trani mi sembra che sia la solita procura che vuole pubblicità, non faccio l'avvocato, non ho le carte, mi pare che si parli del nulla. E poi dice: sia Santoro che Travaglio gettano loro fango, continuano a dire che l'autorità andrebbe chiusa, la GCOM, dicendo che è screditata e non imparziale. Allora, come detto, di politica non si parla per nulla, cadrà anche nel vuoto forse l'appello che il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ieri in audizione antimafia ha detto: liste pulite, escludere chi è colluso, e lo leggiamo a pagina 6 del Sole 24 Ore, come fa Confindustria sostanzialmente. Infatti Marcegaglia era accompagnata dal presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, che già fa questo. Che dice: la sanzione sociale dell'espulsione ha dimostrato di funzionare quanto le sanzioni giudiziarie, cioè via da Confindustria chi paga il pizzo. Lo stesso ha detto la Marcegaglia: fuori politici collusi dalle liste elettorali e dagli incarichi pubblici. Ma ripeto, di tutto questo non si parla, si parla del conflitto politica-magistratura. C'è, secondo la stampa, il Cavaliere che vuole un colpo di teatro, lo leggiamo a pagina 7, un Berlusconi che non ha ancora un asso nella manica da giocare negli ultimi giorni di campagna elettorale. Vorrebbe, come quando ci fu l'abolizione dell'ICI, fare qualcosa che porti a un colpo di scena, ma il problema è che Tremonti, scrive almeno Amedeo la mattina sulla stampa, non scuce un euro. Sulla riforma fiscale ha detto: ci vogliono 2-3 anni, non puoi promettere quello che non puoi mantenere. Così oggi Tremonti, che farà un intervento sullo stato dell'economia alla Camera, non ha alcun coniglio da tirare fuori dal cilindro. Il Cavaliere vuole un colpo di teatro, ma Tremonti tiene chiusi i cordoni della borsa, questo cita la stampa. Faccio un'ultima citazione sulla politica. Ci sono, una provocazione del sindaco di Buccinasco, Loris Cereda. Buccinasco è in provincia di Milano. Al Riformista dice: sapete che c'è? Se non c'è più privacy, meglio annullare del tutto. Metterò sul sito del comune tutte le telefonate, cioè un sistema per cui se uno va sul sito del comune di Buccinasco può capire da una lucina rossa se il sindaco è al telefono, e basta cliccare e ascoltare in diretta quello che io sindaco sto dicendo. Chissà se lo farà, insomma, una provocazione abbastanza forte. L'ultima sulla politica sono, l'unità punta su quello di cui avevamo parlato per la chiusura dei talk show, anche ospitando Margherita Hack settimana scorsa. Il titolo di prima pagina: attenti al canone, cioè chiudono i talk show per un mese, riprendiamoci i soldi di un mese di canone. Sono 9 euro da non pagare l'anno prossimo, ovviamente, togliendo quel mese di trasmissioni che sono state tolte, secondo il direttore Concita De Gregorio, e con questo gruzzoletto di 125 milioni potremmo fare qualcos'altro. Infine, l'ultima battuta sulla politica, prima del traffico. Ricordate Alfredo Milioni, quello che avrebbe presentato le liste del PDL in ritardo facendo tutto questo casino elettorale? Pare che lui, che è presidente anche del 19° municipio a Roma, pare che si sia dimenticato anche di presentare la richiesta per avere i fondi regionali che vengono destinati ai municipi di Roma, perché li hanno avuti tutti tranne il 19°, e all'assessorato al bilancio di Roma dicono: forse è un errore procedurale, possibile che la richiesta sia arrivata tardi. Lo scrive Libero: non bastavano le firme, chiede tardi pure i soldi. Giallo su Alfredo Milioni, che avrebbe commesso questo errore di presentare fuori tempo massimo anche la richiesta di fondi regionali per il suo municipio di Roma. Chissà se è così. In primo piano. Salta l'intesa sugli Edge, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Come ha detto, vale a dire, Londra ha vinto il primo round sugli Edge Fund perché il Consiglio Ecofin non ha raggiunto l'intesa sulla nuova regolamentazione europea che vorrebbe introdurre l'obbligo di registrazione e informazione per gli Edge e i fondi di private equity. Tra l'altro, invece, la notizia finanziaria del giorno per quel che riguarda l'Italia, ne avevamo parlato anche ieri, è che Unicredit, si legge a pagina 5 del Sole, ha rinviato di un mese ieri il CDA le discussioni sulla banca unica, che vede i vari azionisti un po' in tensione. C'è una tregua appunto tra i grandi azionisti e l'amministratore delegato Profumo. Il piano sostanzialmente slitta al 13 aprile, ma leggete tutto a pagina 5 del Sole 24 Ore. Voglio andare rapidamente alle segnalazioni conclusive. C'è moltissima cronaca nera, moltissima oggi sui giornali. Trovate tanto di questo presunto guru di una setta che con delle scuse pare violentasse, a capo della setta Maya, violentasse le donne, violentasse anche le bambine. Però, insomma, sono le accuse, bisogna sempre usare il condizionale. Trovate molto della soluzione di Alberto Stasi, le motivazioni. Trovate molto anche di questa vicenda incredibile. È un delitto che dal punto di vista cronachistico, secondo me, ha appassionato molto, perché è assurdo. Sostanzialmente il fatto dell'assoluzione di della mamma della piccola Matilda Borin, che è stata uccisa il 2 luglio 2005. Qual era il problema? Che in quella casa c'erano solo la madre e il compagno della madre, per cui prima è stato prosciolto il compagno, meglio non indagato, poi è stata assolta la madre. Il problema è che uno dei due l'ha uccisa questa povera bambina, e ora i giudici, assolvendo la madre dicendo non è stata lei, hanno scritto nella sentenza sostanzialmente non è stata lei, perché invece è stato lui che era presente nella stessa casa. Il problema è che lui probabilmente non potrà essere processato mai, perché è già stato prosciolto, cioè non è stato scagionato, e quindi il rischio davvero paradossale è che nessuno dei due finisce in cella e finirà in cella, ma uno dei due inevitabilmente è l'omicida di questa bambina di 2 anni. C'è anche, sempre per quel che riguarda la cronaca nera ed è l'apertura del secolo XIX, una vicenda incredibile che arriva da Genova, dove anche in questo caso molto simile, una festa, un festino a base di cocaina da parte di due persone, una ragazza, Caterina Matas, e il suo compagno, si sono svegliati e sostanzialmente non ricordano, ma uno dei due evidentemente deve aver ucciso la figlia di lei, perché c'è questa scena incredibile: avevamo sniffato coca, al risveglio l'ho trovato morto. È stata ed è accusata ovviamente di omicidio la madre, per questa vicenda che è successa a Genova e che il secolo XIX mette in prima pagina. Voglio chiudere con un articolo, la fiaba triste di Ping Ping e i 74 centimetri di vita. È morto a Roma, peraltro, Ping Ping. Questo che era conosciuto, forse l'avrete visto anche in TV, questo uomo di 22 anni, che è aveva la caratteristica di essere l'uomo più piccolo al mondo, 74,61 cm. Voglio segnalare, non c'è tempo di leggerlo, un articolo molto bello di Paolo Giordano, vale a dire l'autore della Solitudine ai numeri primi, a pagina 29 del Corriere, scrive solo in conclusione: quando vidi Ping Ping in TV mi ha ricordato la fiaba crudele di Dumbo, l'elefante con le grandi orecchie. I pagliacci lo travestono da neonato, poi lo costringono a saltare dal soffitto da una casa in fiamme dentro una bacinella di fango con un sonaglio stretto nella proboscide. Grande ovazione del pubblico all'atterraggio. E terminato lo spettacolo, i clown si liberano dei ridicoli abiti di scena e si levano il trucco, mentre Dumbo ha ancora le sue orecchie grandi e le usa per nascondersi. E allora Ping Ping, è vero, ha dato un senso all'osteogenesi imperfetta, ha tratto la propria sopravvivenza da un limite, per un soffio è morto da primo, da star, e tutti quanti abbiamo sentito piangere un pezzettino di cuore, come ha detto Barbara D'Urso al TG.com, ma nel teatrino di Canale 5, negli applausi compassionevoli di chi è grazie al cielo dalla parte dei normali, quella sera c'era qualcosa di inaccettabile, di penoso, nel senso più profondo del termine. Almeno Dumbo alla fine della storia riusciva a volare. È un bell'articolo che vi segnalo sulla morte di Ping Ping. Quando ne vedrete la foto lo riconoscerete, l'uomo più piccolo del mondo morto nei giorni scorsi a Roma. Ci fermiamo, votate il sondaggio: meglio genitori litigiosi piuttosto che separati, questo per il bene dei figli, che ne pensate? Radio24.it. Alle 8:19 minuti siamo nuovamente in diretta, eccoci con l'economia. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox e inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta Soldi e dintorni. Allora, Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, grazie per il regalo. Che regalo? Oh, mannaggia. Ecco, ha detto lo dico in onda, io ho detto no, è uno scherzo. Sì, è uno scherzo, però intanto me l'hai portato. Mi ha regalato un campioncino di crema antirughe trovato su un giornale. Voi ditemi come si deve cominciare la giornata qua a Radio 24. Era appunto cellofanando un giornale. Offerto su un piatto d'argento, giusto a me, con tutte le colleghe che ci sono in redazione stamattina. Vabbè. Parlo di RC Auto, che è meglio, va, diamo qualche indicazione concreta agli ascoltatori. Allora, buongiorno, l'RC Auto ricomincia a salire di prezzo. I timori espressi a più riprese dal presidente dell'ANIA, l'Associazione degli Assicuratori Italiani, Fabio Cercai, si sono concretizzati. Lui aveva detto qualche tempo fa: RC Auto a rischio di nuovi aumenti nei prossimi anni. Aveva individuato una percentuale fra il 5 e l'8%. L'aumento invece riscontrato da un altro osservatorio è più ampio. Si parla dell'ultimo anno di rincari medi del 14%. Questa percentuale è stata fornita nell'ambito della ricerca dell'Osservatorio Auto 2009 realizzato dall'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Questa mattina ci facciamo dare qualche dettaglio in più dal presidente dei broker italiani, Francesco Paparella. Presidente, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, tanto per cominciare, già abbiamo gettato di malumore il malumore appunto tra i nostri ascoltatori. A quest'ora ci sono moltissimi automobilisti all'ascolto e peraltro avevano già avuto modo di testare personalmente l'aumento. Presidente, più 14%, in che periodo e quali sono i valori medi che avete riscontrato? Diciamo da marzo 2009 a dicembre 2009 il premio medio della polizza RC Auto è salito a 734 euro, con ovviamente politiche sul territorio che sono molto diverse. Campobasso ha avuto degli aumenti molto inferiori, Napoli molto superiori. La situazione di Napoli insomma è sempre la stessa, lì ci sono poi proprio delle questioni del tutto particolari. So che però voi nel vostro monitoraggio non avete tenuto conto degli sconti applicati dagli agenti intermediari, quindi avete fatto proprio un'analisi sulle tariffe all'ordo dello sconto. Assolutamente sì, in realtà il 53% delle polizze viene poi emesso con uno sconto consistente che va dal 10 al 30%. Si tratta di avviare una trattativa con il proprio intermediario. Certo, l'impennata è stata particolarmente consistente negli ultimi tre mesi del 2009, incremento medio del 7,62%, ben superiore all'inflazione. Cosa è successo in questi tre mesi, Presidente Paparella? Ma è successo che alcune ragioni sono tecnicamente sostenibili da parte degli assicuratori. Lei pensa ad esempio alla classe di merito familiare, che di tecnico non ha nulla, perché in una famiglia si possono avere una persona a cinque sinistri e un'altra nessuno, e la persona che ha avuto cinque sinistri ha diritto di avere la classe di merito di chi non ha avuto sinistri. Questo in un meccanismo come il bonus malus è evidentemente dirompente in termini negativi. tutto ciò però si va a sommare al desiderio degli assicuratori di recuperare in un tempo molto stretto, quindi pochi mesi, un anno al massimo, le perdite che hanno accumulato, la riduzione degli incassi che hanno accumulato negli ultimi due anni. Infatti diciamo che è chiaro che questa è una questione che fa arrabbiare gli automobilisti, che ovviamente devono subire questa situazione. Di fatto però, l'ho spiegato Cerchiai in molte circostanze, per le compagnie ci sono stati aumenti dei costi gestionali, appunto, che ovviamente si devono poi scaricare sulle tariffe praticate agli automobilisti. Vi faccio una cifra che è proprio l'esempio che Cerchiai ha divulgato da a diverse platee. Nel 2009 le compagnie su 100 euro di premi incassati ne ha spesi 105 per sinistri in aumento e costi gestionali, e quindi il conto economico delle compagnie non torna. Oltre a questo c'è anche il fenomeno delle frodi, se non ho letto male, Presidente, ad aver provocato anche l'aumento, no? Beh, indubbiamente sì, e se non avremo la possibilità di fare una valutazione complessiva delle frodi, quindi di poter avere un'anagrafe di queste situazioni, sarà ben difficile scongiurare questa tipica situazione italiana che aggrava di molto la situazione sinistra e premi. Detto questo, quello che ci interessa naturalmente raccontare ai nostri ascoltatori è come si può cercare di gestire al meglio questa situazione, soprattutto se magari siamo degli automobilisti, dei conducenti molto virtuosi e ovviamente subiamo a difficoltà l'aumento tariffario. Allora, c'è un altro dato della vostra indagine molto interessante, il tema della mobilità dei consumatori, dei contraenti di assicurazione. Abbiamo sempre detto che le famiglie italiane si spostano con difficoltà e che non cambiano un assicuratore. Questa cifra della mobilità è in aumento, ma in termini ancora insoddisfacenti. Assolutamente sì, dal 2006 al 2009 siamo passati da un 6,3 a un 9,3% di mobilità. Significa 2,4 milioni di clienti che cambiano compagnia nel 2009, ma è molto poco rispetto alla media europea che è del 20%. Se poi andiamo a vedere in Gran Bretagna, la media del cambio annuale dell'assicuratore è addirittura del 50%. Dobbiamo fare molta strada su questo. Ma siamo sempre sicuri che spostandoci troviamo, come dire, l'offerta che fa il caso nostro, ma soprattutto un'offerta tendente al contenimento dei costi della tariffa dell'RC Auto, Presidente? Ma io penso di sì, anche se devo dire che dalla stessa nostra analisi emerge che solamente meno del 13% delle persone, prima di rinnovare la propria polizza, fa una comparazione sul prezzo, e questo evidentemente li penalizza. Noi crediamo che almeno il 30-40% degli italiani, prima di rinnovare la propria polizza, debba guardarsi attorno, come farebbe per qualsiasi altro acquisto importante. Deve guardarsi intorno. Oggi abbiamo una marea anche di, nell'ambito dell'offerta internet, di portali e di strumenti che ci permettono la comparazione delle tariffe. Ne sono nati tanti di recente, c'è assicurazione.it, la tua assicurazione.it, c'è soprattutto lo strumento istituzionale che è il preventivatore ISVAP. Anche voi ne avete uno, Check It Auto, ma questo è rivolto al privato, Presidente Paparella? Sì, no, assolutamente no, è uno strumento di lavoro interno per noi, perché è di uso molto complesso, perché richiede moltissimi parametri per poter fare una cernita del mercato. Quello dell'ISVAP è sicuramente uno strumento utilissimo, che consiglio a tutti gli automobilisti di utilizzare, almeno per rendersi conto del trend delle tariffe della sola RC Auto. Check It Auto è uno strumento interno che usano i broker iscritti all'AIBA, ed è uno strumento che va a comparare anche i premi della polizza incendio e furto, casco, eccetera. Quindi è molto molto più tecnico ed è utilizzabile solamente da persone esperte. Quindi insomma la situazione è questa in questo momento. Magari torneremo a parlarne in un'altra occasione, Presidente Paparella, anche per magari dare qualche indicazione utile ai nostri ascoltatori per poter trovare il miglior risparmio possibile sul mercato. Secondo lei, alla fine di quest'anno che cosa succederà? Continueranno ad aumentare i prezzi? Ho paura di sì, anche se, ripeto, sarebbe molto saggio utilizzare strumenti di comparazione e rivolgersi a persone esperte come sono i broker, anche perché le polizze, al di là dell'aspetto del costo, anche i contenuti delle polizze RC Auto sono molto diversi tra di loro e quindi espongono l'assicurato che non si è ben informato ha delle sorprese anche pericolose, come la rivalsa in caso di infatti sinistro. Peraltro, guardi, le dico che anche di questo abbiamo parlato nella nostra trasmissione il 4 febbraio con il segretario nazionale del sindacato degli assicuratori Giovanni Metti, che aveva proprio presentato a Roma questa iniziativa Non solo prezzo, la trasparenza possibile dell'RC Auto. Quindi attenzione a 360 gradi. Presidente Paparella, buona giornata. Anche a voi e agli ascoltatori. Presto. Buongiorno. Alessandro, vado a mettermi la crema e preparo salvadanaio per oggi. Alle 12. Alle 12 ho mercati. Cosa mercati. Succede sulle borse? Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sull'inchiesta di Trani. Berlusconi dice libertà mutilata e offesa. E oggi su alcuni quotidiani ci sono le telefonate del Premier con il membro della GCOM Innocenzi, che secondo la procura dimostrano le pressioni per chiudere alcuni programmi RAI. Nelle intercettazioni spunta anche il sottosegretario Gianni Letta. Intanto sulle regionali l'appello del presidente di Confindustria Marcegaglia: via dalle liste i collusi con la mafia, mentre il segretario del PD Bersani dice basta polveroni, si parli di cose concrete. Infine per lo sport, impresa dell'Inter in Champions League, i nerazzurri vincono a Londra 1-0 col Chelsea di Ancelotti e volano ai quarti di finale, decisivo un gol di Eto'o. E allora alle 8:35 minuti parliamo oggi di genitori litigiosi, di genitori separati e di figli. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Come detto, il dato è questo: 150.000 sono i bambini che l'anno scorso, secondo l'Associazione dei Matrimonialisti Italiani, sono stati contesi tra separazioni e divorzi dei genitori. Tu vuoi andare a vivere in un residence, vuoi lasciare papà da solo vecchio com'è? Sì, ma voglio dire, sono 50 anni che state insieme. Ma se papà non ti ascolta, perché è sordo? Non è incompatibilità, è sordità. Genitori e figli, istruzioni per l'uso. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Sei cretino! Adesso tutti insieme... Allora, stralci di un film che sta andando per la maggiore, genitori e figli, agitare bene prima dell'uso, per la regia di Giovanni Veronesi, che intanto saluto. Buongiorno Veronesi. Buongiorno a tutti. Allora, perché qui la stanno ascoltando e sono con noi lo psichiatra Alessandro Meluzzi, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista, che ritrovo con piacere, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora Veronesi, tra poco poi Meluzzi ci dirà che cosa ha scritto sul giornale ieri. Veronesi, questo film lei ha voluto, mi pare, anche criticare questo mito della famiglia allargata, è così? Che cosa, diciamo che è nata tutta questa polemica perché ho detto un giorno che secondo me la famiglia allargata è una baggianata. È una baggianata non nel senso tradizionalista della parola, cioè io non sono né un razionario né un tradizionalista, cioè non mi interessa il ruolo della famiglia all'interno della società, mi interessano gli individui, a me mi interessano che non ci sia sprechi di energia da parte di un ragazzino di 10 anni che debba indirizzare i propri sentimenti da troppe parti, ecco, senza saperli indirizzare bene, perché insomma un ragazzino, diciamo, già fa fatica ad amare delle persone che magari gli recano dei piccoli traumi o dei grossi traumi, figuriamoci se ne deve amare 4, 5 o più ancora. Quindi ecco, io diciamo che puntavo più che altro su, come ho sempre detto, su questo branco di persone che sono gli individui importanti della tua vita e che nei momenti topici te li ritrovi accanto nel bene e nel male. Credo in una conferenza stampa abbia detto: ma che famiglia allargata? La famiglia è stretta per sua stessa natura, è stretta, non è... Sì, è stretta nel bene e nel male, eh. Io mi raccomando, dico sempre nel bene e nel male, perché poi le famiglie sono anche deleterie alle volte per i ragazzi, anzi certe volte proprio sono difficili da vivere, però la famiglia è stretta, è piccola, è dura, è una cosa forte proprio, no? E allora vediamo, perché ieri Alessandro Meluzzi, lei sul giornale è stato sintetizzato così, commentando questi dati: 150.000 bambini contesi tra separazione e divorzi, è stato 1.500.000 in 10 anni. In 10 anni. Tutta la città di Milano. Lei è stato sintetizzato dal titolo del giornale, che poi è anche il titolo del nostro sondaggio: i genitori meglio che stiano litigiosi ma insieme piuttosto che separarsi. Questo sarebbe il bene dei figli, il bene o il male minore, meglio che stiano insieme anche se litigiosi. Allora, perché? Bisogna ribaltare un po' l'affermazione che il punto d'arrivo di un ragionamento non può essere punto di partenza, sennò sarebbe troppo facilmente contestabile. Il punto è questo: allora, non c'è un solo bambino che non viva la separazione dei suoi genitori come una vera tragedia. Questa è una cosa che molti contesteranno, molti ripeteranno che i bambini supplicano che genitori cessino di litigare, piuttosto vadano ognuno per la propria strada, ma la separazione, la rottura del nucleo genitoriale è nell'anima, nel cuore, nell'emozione di bambino un dramma vero, sempre, ovvio. Concordo con le cose che diceva Veronesi. Seconda questione, questa cosa è talmente vera che anche in adolescenti che sono passati attraverso una separazione, il sogno di un ritorno insieme dei propri genitori è qualcosa che si affaccia sempre più comunemente. Ve lo dice uno che si occupa di comunità terapeutiche per minori, per adolescenti a rischio, per ragazzi che hanno patito crudamente nella loro carne, nella loro vita, il sangue di questa dissoluzione della famiglia. Concordo con Veronesi quando dice che le famiglie allargate, ricomposte, descritte spesso meno efficacemente che nel suo film della Nouvelle Vague cinematografica italiana, come se fossero dei luoghi allegri e gioiosi, mentre invece spesso sono un inferno, in cui questo totem con la valigia di un bambino ricomposto o multistrato viene portato dalla casa della mamma con il suo nuovo compagno, quella del papà con la sua nuova compagna, con 8 nonni, 15 zii, un totem con la valigia risarcito da vizi, regali e tutto quanto serve a riempire quello che non può essere riempito, che è un bisogno di affetto, di amore e di stabilità. Allora, ergo, di fronte a tutto questo, è così una vulgata divulgabile come un dogma il fatto che consulenti matrimoniali, mediatori familiari, avvocati, colleghi psichiatri, di fronte alle prime crisi di una famiglia, che non ci possono non essere, perché in una società disperatamente centrata sulla ricerca della felicità individuale, al primo litigio, la conclusione, non ci desideriamo più, non ci amiamo più, abbiamo ritrovato un altro, voglio riscopare con un altro, benissimo, allora separiamoci, ognuno per la sua strada, non si pensa più ai figli, non si pensa più al futuro, non questa è, con la maiuscola. È la vulgata. Vediamo Anna Maria Bernardini De Pace, quando lei ha letto questo articolo di Meluzzi, che ha fatto, si è arrabbiata, senso? Io ho telefonato e ci siamo messi a discutere. Io sono immediata, no, non sono d'accordo. Allora, io apprezzo Meluzzi moltissimo, lo conosco da tantissimi anni, mi ha insegnato tante cose che io uso quotidianamente nel mio lavoro, però trovo che sia sbagliato dire questo, perché la separazione alla fine non è una scelta, è una necessità, e non lo dico certo per interesse. Non è vero che arrivano dall'avvocato ai primi litigi le persone. Io sento ogni giorno persone che hanno pensato e deciso dopo 3, 4, 5 anni d'inferno, nella violenza o nell'anaffettività, nella necessità di dovere a tutti i costi, per esempio subire tradimenti continui, e tutto questo sulle spalle dei figli. Io, proprio perché mi sento l'avvocato dei figli, perché non c'è un avvocato dei bambini, e i miei clienti lo sanno, che il primo mio sguardo va sui figli e non sul mio cliente, che arriva sempre dopo, proprio perché non c'è appunto l'avvocato dei figli che li difenda, io sento la necessità per i figli di vivere in una situazione serena, e non c'è serenità quando, ripeto, c'è tradimento, c'è violenza, c'è anaffettività. Però ho sentito Meluzzi dice una vulgata ormai molto diffusa, meglio separarsi piuttosto che... Non è questo, infatti meglio separarsi, però il meglio separarsi arriva dopo un percorso, molto tempo. Dice. Allora, io sono contraria anch'io, su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo, alle famiglie allargate, sono contrarissima, tant'è vero che quando posso intervenire sul programma, diciamo, dei miei clienti, io dico sempre: non mettiamo i bambini a contatto con nuove persone, facciamoli vivere comunque una vita differente, che non abbiano nuove ansie, nuove scalate psicologiche, affettive da fare con persone diverse, estranee alla famiglia, nonni, contrononni. Devo dire che non è che ci sentano molto da questo punto di vista. Cosa. Vediamo il primo ascoltatore, ci ha chiamato l'800 24 0024, Mirko da Prato, la città di Veronesi. Mirko, dica. È un caso, mi sentite bene? Sono benissimo, dica. Benissimo. No, io appunto ho espresso la mia contrarietà all'affermazione di Meluzzi, in quanto innanzitutto queste affermazioni così che tendono a generalizzare non fanno bene a nessuno e non dicono niente in realtà, perché bisogna sempre considerare il caso singolo di una famiglia e soprattutto riguardo al discorso dei litigi, bisogna vedere a che livello sono questi litigi. Io discuto spesso con mia moglie, a volte anche in presenza di nostra figlia, cioè non significa che questi siano litigi. Sono no, ma questo sì, Mirko, è chiaro che ogni caso va valutato a sé, però il concetto che diceva generale Meluzzi, cioè dire c'è una vulgata troppo, a suo modo di vedere, sbagliata, diffusa, di dire al primo litigio comunque meglio separarsi, insomma, poi è chiaro che bisogna vedere caso per caso. Lei comunque, insomma, contesta l'idea di fondo che si possa dire meglio stare insieme piuttosto che... La ricerca deve essere sempre quella di un equilibrio, e sono d'accordo con l'avvocato che ha parlato pochi istanti fa. Va rivolto un pensiero innanzitutto ai figli, perché il bambino è indifeso di fronte alle debolezze degli adulti. Io vorrei chiedere a Giovanni Veronesi, so credere che per fare il film ha anche studiato e letto moltissimi temi di ragazzi che hanno vissuto probabilmente anche queste separazioni, questi divorzi, insomma. Sì, ho fatto fare più di 500 temi, mi sono detto. Ha sentito cosa dice Meluzzi? Cioè, non ha conosciuto un ragazzo che sia passato da questo e che non abbia vissuto un dramma? Guarda, io penso che lui abbia profondamente ragione, cioè in questi temi c'era anche scritto, come ho messo io nel film, perché poi tra l'altro i ragazzini sono bravi a mentire per non doversi sentire responsabili di certe cose importanti, no? E quindi dicono anche finalmente tornò la pace dopo che si separarono, perché questi continui litigi creavano un caos in casa che diventava difficile da sopportare. Ma in realtà poi dopo, all'interno del tema, sebbene la maggior parte, secondo me, poi dopo io non so bene, avesse inventato anche una famiglia ideale, nel senso che parlavano di famiglie che facevano finta che non fossero la loro e poi invece poi piano piano si capiva che raccontavano le loro esperienze, diciamo che loro avevano sempre la voglia di parlare a misura sia del padre che della madre, no? È come io gli facevo sempre la famosa domanda che apparentemente può essere stupida, ma che invece poi dopo è un segnale ben preciso di cosa vogliono i ragazzi. Allora, forza, se devi decidere tra stare con tuo padre e stare con tua madre, decidere separati, con chi vuoi andare? E loro dicevano, ma non lo so, perché non si può dire il padre, la madre, è uguale. Poi alla fine invece una differenza la facevano, alla fine stretti nell'angolo sceglievano uno dei due, il che significa che comunque avevano dato ragione a uno dei due, significa che ci avevano pensato bene, significa anche che naturalmente stavano soffrendo come bestie di quella separazione, per cui diciamo che senza essere appunto reazionari, senza essere persone che vogliono per forza la famiglia come valore sociale, tradizionale, diciamo che i ragazzi, specialmente i ragazzini piccoli che non hanno ancora un pensiero, una vita propria, ma che dipendono totalmente dai genitori, nei momenti in cui i genitori litigano e si separano, soffrono veramente tanto. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Vi stiamo chiedendo, meglio genitori uniti anche se litigiosi piuttosto che separati, questo per il bene dei figli, certo una semplificazione. Professor Meluzzi, io ho letto nel suo commento una visione anche, se lei mi consente, molto cattolica, il che non c'è niente di male, rievoca anche quella che è la sua esperienza e quello che è il suo credo. Non crede che però questo sia in qualche modo una visione parziale, proprio perché esclude coloro che non vi si riconoscono? Ma guardi, la visione che ho del cattolicesimo non è quella di una religione che rappresenta un pezzo del mondo, ma semmai un completamento dell'umano. Cioè, io credo che il cristiano non sia un tipo di uomo, ma sia semplicemente l'approdo a cui l'uomo non può non giungere se include la totalità della sua natura, che non può che essere anche divina. Che se l'uomo non si pensa un po' anche come Dio, alla fine diventa una bestia. Questa purtroppo è una cosa che da Nietzsche in avanti anche i filosofi più laici e più anticattolici hanno riconosciuto. Ciò detto, vorrei dire una cosa. Allora, io ho l'impressione che i numeri ci dicano qualche cosa di sconvolgente. Cioè, il fatto sostanzialmente che un matrimonio con figli su due o da un'altra angolazione su tre, a seconda di come facciamo la statistica, vada incontro a separazione e divorzio, è un numero sconvolgente, anche per il momento in cui la legge sul divorzio venne varata, che doveva servire a sanare, come avrebbe detto l'amica Bernardini De Pace, delle situazioni gravissime, insostenibili. Mm. Allora mi pare che sia successo, lo dico, consentitemelo anche da cattolico, cosa che non nascondo, sono anche consacrato, è un po' come è successo una legge sull'aborto, cioè l'aborto anziché essere un modo per sanare delle situazioni estreme, l'orrore dell'aborto clandestino, la violenza, le mammane, è diventato in qualche modo, e lo sarà ancora di più con la pillola RU486, una sorta di tecnica di prevenzione della gravidanza, di contraccezione, così come il divorzio anziché essere un metodo per sanare delle situazioni estreme, dice, è diventato una sorta di... metodo per la prevenzione della crisi. Guardi che su questo l'avvocato Bernardini De Pace, che so, l'abbiamo chiamata l'ultima volta avvocato parlando proprio del divorzio lampo, no? Quello che accorcia i tempi della separazione prima del divorzio, su questo so che immagino cosa ha fatto, sobbalza sulla sedia mentre sente il professor Meluzzi. Il mio ragionamento, allora, questa situazione fa sì che il matrimonio, anziché essere quello che deve essere un grande laboratorio dell'umano in cui la famiglia tiene e ha sempre tenuto anche quella, come dire, delle generazioni che c'erano preceduto, perché si basava sull'idea anche del sacrum facere, fare il sacro, che in italiano vuol dire sacrificio. Senza sacrificio non si impara una lingua straniera, non si impara uno sport, non si impara un mestiere, non si scrive un brano di poesia, non si compone una musica, non si fa un film. Senza sacrificio non si tiene insieme una famiglia. Vediamo Bernardi, avvocato. Infatti non è la legge che induce alla separazione, ma l'impreparazione a essere coniugi e genitori. Allora vi racconto brevemente un fatto dal quale il mio pensiero emerge chiarissimo. Una quindicina d'anni fa io ho parlato con un ragazzo dopo che c'era stata una separazione tempestosissima tra i genitori e gli ho chiesto: è stato un problema, ti ha pesato molto questa separazione? E lui mi ha risposto: non mi ha pesato la separazione dei miei genitori, bensì il loro matrimonio. Un mese fa questo ragazzo è venuto da me con la sua fidanzata e mi ha detto: avvocato, noi ci vogliamo sposare, siamo due figli di separati entrambi, non vogliamo fare l'armata Brancaleone delle famiglie come avviene oggi, per cui abbiamo deciso di sposarci, siamo molto innamorati, però stiamo frequentando corsi di psicologia, leggendo libri sulla famiglia, parlato con preti, parliamo anche con avvocati, perché non vogliamo essere inadeguati come lo sono stati i nostri genitori, che non avevano il senso della responsabilità, non avevano il rispetto dei figli, non avevano capacità educative. A noi è la vita che ci ha formato, non i nostri genitori. Adesso loro si stanno preparando a fondare una famiglia, anche forse coi principi che ha appena detto Meluzzi, anche col senso del sacrificio, ma è sbagliato il sacrificio per cui una persona tra due coniugi, se ha l'altro coniuge cattivo, persecutore, violento, si sacrifica per tutta la vita, vivendo l'inferno in terra per poi aspirare al paradiso, mentre l'altro genitore ha il paradiso in terra perché fa quello che vuole. Vediamo se Luigi da Forlì che ne pensa. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Beh, diciamo, secondo me quando poi si parla come concetto fondamentale che si tira sempre fuori, quello della violenza, secondo me non vabbè, ha senso. Ma questo, è chiaro che se uno è un violento è un deficiente, cioè non è che sia... Vabbè, il suo parere in generale... Insomma. No, io concordo con il dottor Meluzzi per quanto riguarda il discorso, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei figli, perché veramente presumo che sia una cosa orrenda per un bambino di 3-4 anni il venerdì prendere e spostarsi. E quindi lei dice piuttosto anche con litigi, anche con fatica, ma bisogna stare insieme. Ma secondo me l'intelligenza delle persone deve superare quello che è. È chiaro che quando si decide di fare un figlio, insomma, è una cosa importante. Uno fa un figlio ed è un violento, allora. La violenza lasciava fare. No, laddove entra la violenza cambia tutto, insomma, la prospettiva, insomma, cambia. Stiamo parlando di situazioni più sane, ecco, se mi permette. Vorrei chiudere Giovanni Veronesi. Il suo è un film, ma che ritratto dà di questi personaggi che fanno parte delle famiglie allargate? Che personaggi sono alla fine, che fanno i conti con la propria felicità oppure no, mediamente? Ma gli adulti non hanno troppi problemi perché diciamo che sono abbastanza egoisti in questi casi, per cui riescono a sfangarla, come si dice, no? Ma sono i ragazzi. Certo, io credo che le leggi di cui parlava Meluzzi siano intoccabili e inviolabili, cioè l'aborto e il divorzio sono delle conquiste vere della società, per cui non è tanto sulle leggi che bisogna agire, è sugli individui. Gli individui negli ultimi 20 anni, specialmente la mia generazione, 45-50, sono disastrati, sono persone che hanno avuto un azzeramento culturale feroce, che hanno avuto un appiattimento dei valori feroce, per cui insegnare ai propri figli resta molto più difficile. Ecco perché io penso che bisogna veramente agire dal basso, bisogna. Ed ecco anche perché non a caso 3 film di 3 autori italiani, Virzì, io e Ferzan Ospetek, anche se tratta il tema dell'omosessualità, comunque sono incentrati sulla famiglia, un nucleo familiare, un nucleo stretto, cioè quello che ti condiziona la vita nel bene e nel male. Bisogna ripartire da lì, perché è da lì che si insegna alle persone ad amarsi davvero tra di loro. Poi che si separino o non si separino, questo è un diritto che è stato acquisito e nessuno glielo vuole togliere alle persone. La cosa importante è che anche nella separazione ci sia amore nei confronti dei figli e non ci sia trascuratezza e non ci sia egoismo e non ci sia prevaricazione. Questa è una cosa importante, quindi sono gli individui che devono cambiare, allora, non le leggi. Oltre al suo bello, anche quello di Virzì l'ho visto molto bello, anche quello di Ospetek non ancora, ma mi riprometto lo farò. Grazie Giovanni Veronesi, regista di Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso, così come il professor Alessandro Meluzzi e l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Devo dire, il 67% dice per ora siamo d'accordo con la proposta di Meluzzi, o meglio l'opinione di Meluzzi, su Radio24.it. Saluto Sara Spreafico, grazie, in redazione Peter Bescapè in regia. Sara Spreafico, saluto, agita la manina al di là del vetro, ciao Sara, ci sentiamo domattina.